cui parliamo, che appunto si chiama Diversamente Occupate, è un gruppo di ragazzi che viene dal mondo dell'università, che ha provato a confrontarsi rispetto a quello che a quello che oggi è il lavoro, anche perché la prima riflessione che è nata da questo confronto è il fatto che oggi il lavoro è uno dei punti principali di identificazione, ovviamente è anche uno dei problemi principali che molte ragazze appunto incontrano nella loro vita. E in particolare hanno provato a ragionare su quello che è il rapporto tra il lavoro e vita, quindi da una parte come il lavoro entra nelle vite perché appunto identifica, perché appunto fa parte della realizzazione individuale, e come però anche il lavoro a un certo punto di vista ti mangia la vita, nel senso che entra nella tua vita, nei tuoi tempi, nei tuoi ritmi, e come anche dentro il lavoro ti puoi realizzare, quindi come la precarietà incide in questo senso, incide rispetto anche all'autorizzazione di sé, a come vivi il lavoro e a come anche però ti può portare in una condizione di ricatto, quindi anche di difficoltà, di subalternità. Questo incontro tra questo gruppo di giovani donne ha prodotto questi due numeri dove si è parlato prevalentemente di lavoro. Tra l'altro, Diversamente Occupate si è presentata con un curriculum collettivo che potete leggere in questo numero, e un curriculum collettivo che in realtà è un po' l'affresco di una generazione, quindi di come una generazione si è affacciata al mondo del lavoro con le proprie modalità, le proprie aspirazioni, con le proprie esperienze. E nel numero appunto Diversamente Occupate si parte con un confronto tra queste ragazze che poi oggi interverranno, che ragionano proprio di questo, ragionano quindi del loro rapporto con il lavoro e ragionano anche di quale spazio pubblico, di quale azione collettiva è possibile costruire in un mercato del lavoro che è cambiato, che è molto frammentato, che spesso non offre occasione di incontro e anche quindi occasioni di azione collettiva. Proprio a partire da questo nasce l'esigenza di confrontarsi anche invece con quella che è l'esperienza del sindacato, tant'è che poi nel secondo numero che oggi sempre presentiamo, lavoro e non solo, il secondo numero si prova anche a fare una riflessione sul sindacato, quindi su come le organizzazioni di rappresentanza si pongono il tema del lavoro femminile e il tema più in generale appunto dei diritti, anche di come il mercato del lavoro che è cambiato. E la cosa che ne esce appunto l'esigenza di ricostruire una rappresentanza, di ricostruire un rapporto col sindacato, che emerge anche in particolare dal secondo numero, che è anche un po' l'obiettivo di questo incontro, ovvero a partire da questa elaborazione, da questa riflessione, provare a confrontare diverse esperienze e capire come oggi è possibile porre il tema dei diritti, del lavoro, della condizione appunto anche delle donne dentro il lavoro. E come poter trovare spazi di azione collettiva, di rappresentanza. Quindi l'obiettivo di questo incontro è anche quello di provare a mettere in rete esperienze diverse. Quindi oggi parteciperanno a questo incontro, oltre alle ragazze del gruppo Diversamente Occupate, anche Federica Giardini di WF e Sandra Burchi. Sono dei contributi esterni, dei contributi di Adriana Annicini, della Libera Università delle Donne, e di Antonella Paucci, che è un'avvocata del lavoro, e poi proprio confrontando anche diverse esperienze, Claudia Pratelli, che è una delle animatrici della campagna Giovani Non Predisposti a Tutto, ci racconterà anche come dentro la CGL stiamo cercando di individuare spazi e modalità nuove per aggregare, per ricostruire un'azione collettiva in quel mondo degli invisibili che spesso non riesce a trovare uno spazio, una voce e a sentirsi rappresentato. L'idea è fare un incontro il più possibile informale, con interventi brevi, tutti sono invitati ovviamente a prendere la parola, a dirla loro, quindi cerchiamo di fare un confronto, come dire, libero, autentico, per riuscire realmente a uscire da qui con qualche idea in più, anche con qualche azione da poter mettere in piedi insieme. A questo punto direi lascio la parola a Teresa, che ci racconta un po' la loro esperienza. Sì, salve a tutti. Come come diceva giustamente Ilaria, questi due numeri di DVF, che è una rivista storica del femminismo romano, nascono dalla constatazione che la dimensione lavorativa tende ad imporsi come l'orizzonte rispetto al quale dobbiamo inevitabilmente misurare noi stesse, i nostri desideri, i nostri progetti e la nostra ricerca di senso. E l'urgenza è stata quella di dare voce a un'insoddisfazione nei confronti dell'esperienza del lavoro, che non è semplicemente riconducibile alla precarietà delle condizioni lavorative e di vita che anche i nostri colleghi maschi subiscono come condizione storica, ma riguarda il bisogno di un altro modo di vivere il mondo del lavoro e soprattutto la volontà di riprendere parola su questo. Abbiamo allora pensato il lavoro a partire da noi e dalle nostre esperienze, con un linguaggio che potesse scalzare la retorica del mercato come quella della precarietà. E ci siamo interrogate su cosa della nostra ricerca di senso avesse a che fare con una necessità più ampia di critica dell'esistente e quindi con le condizioni materiali che caratterizzano l'esperienza del lavoro e con l'universo simbolico che le giustifica e le rende possibili. Abbiamo cercato cioè di andare oltre i classici nodi lavoro retribuito, lavoro di cura, tempo di lavoro, tempo di vita, per indagare le condizioni che ci portano a pensare il lavoro come una dimensione imprescindibile della nostra esistenza e determinante nella costituzione della nostra identità. Abbiamo pensato il lavoro da diverse prospettive, indagando nei corpi sessuati che lo vivono, le relazioni, i sostegni familiari che lo permettono, le narrazioni che ne parlano al passato e le negoziazioni che tra contrattazione collettiva e individuale lo rendono l'occasione per trovare ed agire un senso nella propria vita, però correndo il rischio che portare tutto al mercato si traduca nella trappola dell'espropriazione di energie, desideri e progetti. Rintracciare queste forme nel mercato per dare al lavoro il posto che vogliamo nella nostra vita diventa un problema quando l'instabilità dei luoghi e delle relazioni di lavoro e la ricattabilità che viviamo sul mercato ci impediscono di negoziare. E su questo incide non solo la struttura del mercato del lavoro orientata al maschile, ma anche la debolezza delle reti di contrattazione e di rivendicazione collettiva, non solo istituzionali, di spazi pubblici in cui avviare nuove forme di negoziazione dirette a ridisegnare le coordinate entro cui collocare l'esperienza del lavoro nella vita di ciascuna e di ciascuno. Perché oggi la negoziazione, lo abbiamo detto spesso, è diventata individuale, un faccia a faccia tra lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro, è un meccanismo di rilancio, un gioco al massacro a cui è sempre più difficile prendere parte. E questo accade ed è venuto fuori spesso dalle nostre discussioni perché c'è mancanza di uno spazio pubblico in questo periodo storico. C'è mancanza di quelle reti politiche di cui le generazioni precedenti invece possono raccontare. Cioè c'è stato un cortocircuito nella trasmissione di un'eredità di movimenti collettivi e questo si vede anche nel mondo del lavoro. Oggi lo spazio pubblico si è ridotto al punto che spesso è proprio il lavoro a prenderne il posto, diventando il surrogato di uno spazio di condivisione che però è uno spazio pubblico costruito ad hoc per soggetti individuali che faticano ad entrare in relazione. E in questi mesi ci siamo interrogate spesso, anche con altre donne, sulle possibili strategie da adottare affinché si reinventi quella dimensione pubblica che ci è stata tolta. Ecco perché siamo qui e perché siamo qui oggi, ad un anno dall'uscita del primo numero, Diversamente Occupate. Perché il valore aggiunto di questo lavoro, credo, è proprio quello di non essere rimasto ancorato sulle pagine di una rivista, ma di aver preso parola in corpi sessuati che hanno portato il loro pensiero in mezzo ad altre donne. Abbiamo incontrato le donne di Milano, le donne dell'Udi, le donne della Casa di Pisa, il Centro Donna di Livorno, e abbiamo incontrato donne di generazioni diverse, con di scuole di pensiero diverse. Ci siamo spesso scontrate, soprattutto con le donne di Milano, ma molto più spesso abbiamo incrociato saperi e pratiche e ci siamo messe in relazione e abbiamo convenuto sull'urgenza di fare rete. E ciò che è più bello, abbiamo convenuto sulla necessità di pensare insieme, in presenza. È emersa con forza la necessità di individuare gli strumenti a disposizione, non solo quelli d'insieme che permettono di inquadrare la prospettiva, ma soprattutto quelli concreti, giuridici, quotidiani, anche improvvisati in mancanza di riferimenti certi, contrattuali ma non solo, ma soprattutto efficaci. È la risposta al nostro desiderio di mettere in rete energie, modi e pensieri femminili da portare al mercato se e solo se vengono riconosciuti, se e solo se rispondono al nostro desiderio e se e solo se è possibile negoziarne insieme ad altre e altri le condizioni materiali e simboliche. ci siamo resi conto che forse negli ultimi anni, a forza di delegittimare il sindacato, perché è incapace di rappresentarci e non solo noi donne, perché è portatore di valori e linguaggi del passato, abbiamo finito per ritrovarci senza strumenti concreti per negoziare e trattare nel mondo del lavoro. E ecco perché siamo qui oggi, perché pensiamo che forse dopo la presa di coscienza del sindacato, come Susanna ci ha detto nell'intervista che si trova sul secondo numero, di un ritardo nella comprensione della trasformazione storica a cui si stava andando incontro, forse sia arrivato il momento di pensare insieme uno spazio possibile, quindi ristabilire una connessione, parlarci, ascoltarci e trovare oppure ritrovare un linguaggio comune, uno spazio di condivisione sessuato in un luogo come la CGIL ricco di contraddizioni nel rapporto avuto in passato con i movimenti femministi di cui Susanna parla chiaramente nella nostra intervista. È stata proprio lei a dire che sulla questione del lavoro il femminismo si è fermato. Ma oggi il nuovo femminismo interroga il lavoro mettendo al centro la propria identità, così come durante i movimenti femministi lo si faceva per la sessualità, e non solo durante i movimenti femministi. E questo accade perché ne sentiamo l'urgenza, perché ci troviamo ancora di nuovo di fronte a discriminazioni di genere, di classe, ci ritroviamo a ripensare i diritti in un'epoca in cui sembrano diventati privilegi per poche e pochi. Perché, questo ve lo leggo testualmente, il titolo terzo della Costituzione italiana, in particolare gli articoli 36 e 37, che forse a distanza di 60 anni sarebbero potuti suonare ovvi, sembrano sovversivi quando parlano di diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, di durata massima della giornata lavorativa, di diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, di stessi diritti e retribuzioni a parità di lavoro per donne e uomini. E allora questo incontro in CGIL con la segretaria, sì donna di sindacato ma anche di movimento, con tutte le contraddizioni che questo comporta, ma soprattutto con le donne di sindacato più giovani, che forse di tutto questo hanno un'esperienza più diretta e lo hanno dimostrato con la campagna... Dov'è? La campagna non più di spazio e tutto. È molto importante, riveste un'importanza fondamentale per ripensare il lavoro di donne e uomini superando la retorica della precarietà e partendo dall'esperienza delle giovani e dalle conquiste messe quotidianamente in pericolo delle meno giovani per costruire e mettere insieme una strategia di pensiero ed azione che sia concreta. È stata proprio Susanna a dirci che bisogna avere chiare due idee per farci strada in un processo di riavvicinamento tra istituti di rappresentanza e lavoratori e lavoratrici. Da una parte ricostruire una conoscenza e un linguaggio comune, dall'altra la necessità di delegificare e tornare alla contrattazione. E a questo aggiungerei la costituzione di una nuova piattaforma di negoziazione, di cui la stessa CGIL potrebbe farsi carico, che tenga conto delle diversità dei modelli lavorativi oggi, delle esperienze di donne e uomini, della differenza sessuale al lavoro e che da questo parta per valorizzare forme di contrattazione che non ci schiaccino sulla parità, ma che ci facciano sentire tutte e tutti lavoratrici e lavoratori con uguali diritti. E nel nostro percorso di strumenti ne abbiamo incrociati diversi, ci hanno parlato di patto intergenerazionale, di maternità universale, quindi maternità come diritto di cittadinanza slegato dal lavoro, di politica generativa fino ad una vera e propria guida per giovani donne al lavoro. Le donne dopo di me si soffermeranno proprio su questo perché pensiamo che questo è il di più di un percorso che indaga il lavoro a partire da sé come è tipico del femminismo della differenza, ma che non si ferma ad una dimensione autoreferenziale, bensì cerca di raggiungere altre donne e perché no anche gli uomini. E oggi forse potremmo iniziare a farlo insieme. Bene. La Federica Giardini di Washington. Siamo scambiati. Ci scambiamo. Non sei la sola che ha fatto i soldi. No, infatti non ci piace. Abbiamo deciso di Sandra Burchi? Sì, allora. Tra le tante cose vere e tristi che dice Zygmunt Bauman, ce n'è una che suona più o meno così. Siamo tutti così presi a occuparci dei nostri tanti mille progetti che ci dimentichiamo di seguire il progetto di cambiare il mondo. Allora, quanto questa cosa sia vera forse ce lo possiamo anche ricordare, però credo che di tutto, di questo tipo di teorie che ci immobilizzano piuttosto che spostarci, non ne sentiamo più il bisogno. Abbiamo bisogno appunto di teorie e storie che ci spostino rispetto a quello che pensiamo e ci spostino verso l'azione, la politica. E forse non ci bastano più neanche le teorie, ci servirebbero dei nuovi affetti per affrontare la vita pubblica. Mi sto chiedendo da un po' di tempo attraverso quali passioni e quali affetti possiamo riaffezionarci all'agire nel mondo, all'agire pubblico, perché anche di questo forse abbiamo oggi bisogno. Non sono domande astratte, i nostri corpi affaticati, tesi, multitasking, chiedono le risposte e le nostre menti hanno bisogno della libertà di immaginare. Come femminista appartengo alla generazione di mezzo. Dal femminismo delle donne più grandi ho avuto curiosità, desiderio, spesso anche nostalgia. A lungo mi sono immaginata il femminismo degli anni 70 come il tempo delle origini, il tempo della scoperta, delle lotte, un tempo intenso, pieno di voglia e di speranze. Ma come femminista di mezzo, di una generazione che è venuta dopo, ho trovato posto nella mia generazione, appunto, non solo coltivando il legame con quelle donne più grandi, ma provando a tenere insieme quello che mi aveva interessato con quello che nel frattempo si era creato come discontinuità. Il mondo dagli anni 70 agli anni 90, quello in cui io mi sono trovata a essere adulta, era cambiato e più di tutto era cambiato il lavoro, le condizioni in cui il lavoro si presentava nelle nostre vite. Nei confronti delle donne più giovani allora è stato interessante e strano, importante anche, inaugurare rapporti in cui era possibile far giocare in positivo il legame con le donne più grandi e la discontinuità registrata nella mia vita insieme alle altre. E abbiamo provato a mettere a profitto i pieni e i vuoti di una linea genealogica in cui femminismo e questione lavoro si sono rincorsi. E l'abbiamo fatto nei luoghi in cui eravamo, nei luoghi in cui flessibili, abbiamo cominciato noi, questo va detto, eravamo, quindi nel lavoro, nella formazione, nell'università, abbiamo cercato nei luoghi in cui comunque prendevamo posto e parola di creare legami. In tutto questo mi piace ricordare anche con il legame con una generazione ancora precedente, quella prima del femminismo, che solo apparentemente ci ha toccato di meno. Le donne incontrate nella vita reali, le nonne, le madri, nel lavoro e nella ricerca, le donne della parità, le vecchie sindacaliste, le partigiane e quelle incontrate nei libri. Dico tutto questo perché appunto sto cercando legami. E se vado all'indietro, questi sono legami che trovo. Vedo generazioni legate, seppure diverse. E sono sicura che serva coltivare più di quanto non siamo state capaci di farlo fino ad oggi questo legame, per costruire forme di riconoscimento che tengano insieme appunto discontinuità e differenze. Generazioni diverse, problemi diversi. Siamo ormai in grado di farlo, credo, siamo tutte legittimate a prendere parola. Credo che abbia senso parlarne qui, dentro un sindacato che ha compiuto 100 anni, dove le generazioni ci sono, convivono, si incontrano, si scontrano, ma insomma si trovano. Di questo qui si è fatto e si continua a fare esperienza, la giornata di oggi è un esempio. Ma stavo cercando anche un legame orizzontale, alleanze possibili nel presente, pratiche che consentano alla rete ormai esistente di gruppi, soggetti, singoli di trovare una politica capace di cambiare le cose, di diventare influente. Quello che ci è successo andando in giro a presentare la rivista è stato che più volte ci siamo dette: vabbè, ci siamo, abbiamo un linguaggio, abbiamo le parole, abbiamo una rete, siamo consapevoli, sappiamo scriverne tutto questo, sappiamo parlarne, ci serve qualcosa di più, come se ci fosse una sospensione, un rimanere un attimo prima di un agire necessario, un agire necessario a cambiare le condizioni materiali in cui appunto il destrutturarsi del lavoro impantana o complica le nostre vite. e da quando è uscito il primo numero di Versamente Occupata, attraverso appunto la, il giro di presentazioni che abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato di portarci a casa qualcosa, come diceva Teresa prima, cioè di sfuggire alla formula rituale della presentazione, e con lo stesso spirito siamo arrivate fin qua. E non soltanto fra i due numeri c'è già un piccolo scatto, perché se il primo si chiama Diversamente Occupato, il secondo si chiama Lavoro Se e Solo Se, con quell'idea di costruire anche condizioni di praticabilità che forse sono, fanno un po' eco a Non più disposti a tutto, che abbiamo poi felicemente incontrato per le strade e oggi qui dentro. Quello che è abbastanza evidente andando in giro è che la capacità dei singoli di reinventare al meglio le condizioni di lavoro, usando anche il proprio percorso di vita come laboratorio di invenzione, di reinvenzione, di cambiamento, ha toccato una specie di soglia al limite. Più di questo non si può fare, appunto. Più di questo le donne, anche le donne coraggiose, che non si sono sottratte alla sfida di entrare con i propri corpi e le proprie intelligenze in un mercato del lavoro in trasformazione, le donne che hanno imparato a negoziare, insomma a starci dentro in questo mercato che cambiava, più di questo non possono fare, hanno bisogno di un di più, un di più di strumenti, di dispositivi, un di più di forza, una forza non ascrivibile al campo dell'individuale né della relazione con le altre. Insomma, abbiamo misurato un bisogno di collettivo e di qualcosa di molto simile a quello che un tempo si chiamavano diritti. Dico un tempo perché è abbastanza chiaro che bisogna anche inventarne di nuovi, o forse aggiornare quelli che abbiamo, non soltanto giocando alla meno, cioè tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel mondo e nell'economia, ma anche giocando alla più, tenendo conto appunto di quello che è cambiato nella coscienza di tutti e di tutte soprattutto, quindi dei diritti che possiamo richiedere come donne e che ormai appunto hanno avuto, sono stati messi al mondo in un certo senso, ma forse giocare alla più vuol dire anche partire da quello che è questo nostro mondo, dai limiti in cui l'economia ci ha tirato dentro, cioè non è soltanto un mondo del lavoro che è scoppiato, forse anche questa economia ha dimostrato i suoi limiti. Abbiamo trovato in questo giro di presentazioni anche esempi di donne che si sono messe volontariamente ai margini di questo sistema economico, non come rinuncia, ma come scelta di cambiamento. Se si osservano le storie delle donne, queste cose ci sono. Sono piccoli esempi di critica al consumismo, critica a questo sistema, critica a questo mondo del lavoro che ci vuole appunto molto affaticati. Allora, tutto questo forse varrebbe la pena di metterlo in una piattaforma ideale. Ci siamo immaginate di scrivere una specie di piattaforma ideale da portarti, poi non l'abbiamo fatto, abbiamo scoperto che non ci riesce, però ci piacerebbe, insomma, farlo. Quello che però siamo sicure è che la frase che ha detto Alessandra Bocchetti alla manifestazione del 13, le donne hanno le mani piene di politica, sia un fatto vero. C'è molta politica nelle vite delle donne, una politica che appunto a questo punto può intervenire nella ridefinizione di quelli che appunto un tempo si chiamavano diritti. Grazie. Federica? No, se no se vuoi si passa. Va bene, sono un po' di mezzo. Vabbè, allora vado per punti. Il punto di partenza è il fatto che stiamo vivendo un tempo di crisi, e crisi però lo prendo, sì, nel senso anche, no, che spaventa, che dà inquietudine, eccetera, ma anche nel senso che stiamo in un campo che non è definitivamente deciso rispetto alla direzione che prenderà. Ci sono tante proposte di risposta a questa crisi e tra le varie risposte c'è un conflitto, no, da fare. Penso che le donne al lavoro, e insomma mi sembra che queste voci più giovani lo dimostrino in pieno, le donne in questi tempi qui hanno un vantaggio, hanno anche un sacco di svantaggi, ma hanno anche un vantaggio, cioè di essere in una posizione che ha le energie da dedicare alla lettura di questi tempi, perché non ha le energie sequestrate dal lutto da fare su che cosa è stata cittadinanza, che cosa è stata, no? Perché per una storia recente che le vede eccentriche, la questione del diritto di voto che poi non risolveva il problema della rappresentanza, il fatto che la rappresentanza non è mai stata una risposta politica piena, no, alla partecipazione e alla presenza delle donne, la questione di pensare la cittadinanza legata alla figura dell'avvocatore, che anche lì si è aperto uno scatto. Questa eccentricità che ha creato grande fatica, però di questi tempi qui aiuta per avere le energie libere per guardare in avanti, per leggere il presente e stare in una posizione, insomma, di slancio, di generazione, di fecondità. E è proprio su questo punto che io vorrei fare una proposta, vado molto rapidamente, cioè stiamo in un momento di crisi sia delle forme del lavoro, così come le abbiamo conosciute, sia del rapporto lavoro-cittadinanza, no? Come complesso di diritti che proprio sul lavoro fanno perno, ma anche crisi della politica della rappresentanza. Allora, io vorrei riprendere dei pezzetti, degli elementi da due pensatrici che secondo me nessuna delle due possono essere prese in blocco così come sono, però tutte e due ci danno degli elementi per pensare anche sia a una teoria del lavoro o a una teoria entro cui pensare il lavoro per parte di donne, sia a poi una dimensione di pratiche. E io questi elementi qui ci tengo a dirlo perché è una pratica del pensiero della politica delle donne, questi elementi qui li ho visti come elementi significativi perché c'è già qualcosa di fatto dalle donne, quindi non è, no, un pensiero che poi cerca applicazioni, e vorrei dirlo dunque in breve. La prima pensatrice è Sila Benhabib, pensa la politica e a un certo momento tira fuori quella che secondo me è un'invenzione veramente notevole, quando analizza quello che succede in Francia intorno alla questione del velo, vede queste tre ragazze che fanno un atto di politica che sta tra le grandi norme costituzionali, no? I principi costituzionali che lei addirittura vede connessi non solo alla Costituzione francese, quindi alla Costituzione del paese, ma anche proprio ai diritti umani, no? Lei dice libertà religiosa. Quindi c'è un salto, c'è una presa, no? Un aggancio sul piano del diritto che va al di là degli istituti della cittadinanza e della rappresentanza legati al territorio nazionale. A maggior ragione perché queste ragazze, essendo musulmane francesi di seconda generazione, stanno in un rapporto con la cittadinanza francese, no? E lei cosa dice? Dice, appellandosi a questa norma, insomma, no? Generale della libertà religiosa, loro però poi né con l'azione politica, cioè con il fatto che disobbediscono al preside a scuola e si presentano comunque col capo coperto, col fatto che prendono parola pubblica, si esprimono eccetera, reinterpretano attivamente, no? Reinterpretano un possibile contenuto di quella norma generale. Ora, questo lei lo chiama processo giusgenerativo e secondo me noi lo possiamo riprendere per parte nostra di questi tempi qui come politica giusgenerativa, cioè partire dalle azioni che effettivamente si compiono e produrre esprimersi non solo nella sfera pubblica, nel prendere posizione, nel fare dei gesti, ma anche fermando un momento giuridico in questo agire, cioè riconnettere agire politico e diritto. Per me l'incontro con le donne di Livorno è stato molto importante a proposito di cose che già esistono, perché lì, a parte c'è pure una delle autrici di questo libro di prossima uscita, no, su diritto del lavoro, donne, eccetera, ma anche perché io ho visto al lavoro questa possibilità, cioè mi hanno detto, c'era un gruppo di donne, una Simona Cercari mi ha raccontato, in un luogo di lavoro un gruppo di donne ha individuato, a partire da quell'esperienza lavorativa, delle urgenze e, cito Simona Cercari, ci vogliono poi delle competenze giuridiche vere, e questo ha fatto sì che si trovasse la fattispecie giuridica per rispondere a quell'esigenza. Secondo me la cosa interessante è che c'è la possibilità di riconnettere politica e diritto, senza dire che la politica ha senso solo nel momento in cui consegue diritti e senza pensare che i diritti preesistono all'agire politico. E quindi si tratterebbe di una produzione di momenti giuridici contestuale, locale. Dov'è che questo però non diventa l'ennesimo episodio di una frammentazione? Il fatto che ci sia la possibilità di orientarsi secondo poi delle norme, dei principi, no? Di giustizia, perché poi quello a cui si appellavano le tre ragazze di cui parla Sila Benhabib, no? Quello stavano facendo, quindi che ci sia un livello alto di ispirazione, ma che poi i singoli casi siano agiti politicamente e prendano, no, anche un momento di fissazione attraverso regolamenti, insomma strumentazione giuridica, anche in forme contingenti. Che cosa non va bene in Sila Benhabib? Non va bene perché lei dice che questo agire politico poi ha il suo valore delle tre ragazze perché incide e modifica una legge, cioè si rimette sul piano delle leggi, e nell'intervista che Teresa fa a Susanna Camusso viene fuori questo fatto che invece noi abbiamo un piano legislativo estremamente rigido, no? E che casomai la strada sarebbe delegificare. Secondo me la proposta di una politica giusgenerativa è interessante anche da questo punto di vista qui, perché non rinuncia al diritto e però non individua il diritto soltanto nella produzione di leggi che devono passare attraverso la dimensione rappresentativa della politica, no? Mentre in questo caso noi avremo tutto un altro percorso. E l'altra messa a valore di un'altra autrice è quello che dice la Young, Iris Marie Young si chiama, e io la trovo molto interessante perché dà aria rispetto a quello che si considera agire politico oggi, sia a livello istituzionale che non istituzionale. Purtroppo sta passando anche qui in Italia l'idea che agire politicamente è fare dichiarazioni e argomentare vince l'argomentazione in urne, va bene? Quindi tutta un'attività, un procedimento razionale. Tornando all'esempio delle tre ragazze del velo, loro è vero che hanno preso parola, ma non hanno preso parola, non hanno vinto simbolicamente. Cioè non hanno prodotto qualcos'altro perché hanno avuto l'argomentazione più forte e migliore. Hanno fatto un'altra cosa ben più impegnativa e consistente, che hanno fatto un gesto, tanto per cominciare, e che quel gesto è dettato da urgenze di vita. loro non volevano né stare a casa fuori dalle scuole francesi pur di tenersi il velo, né andare a scuola, no, tagliandosi via da tutto. Quindi c'è stata un'urgenza, una contraddizione, una materialità di vita che ha chiesto qualcosa di più di quello che le leggi erano capaci di, non solo di recepire, ma addirittura di formulare in parola. Quindi non si è trattato di un'argomentazione. Qui vengo a qualcosa di cui so di Adriana, ma perché me ne ha parlato Sandra. E dunque, è un passaggio, poi mi dirai se è così. E dunque, perché Adriana diceva basta la narrazione, cioè sono passati anni e anni. Ecco, io trovo che la Young ci dà un punto su che cosa farne della narrazione. Lei dice l'idea che la presa di parola e il confronto nella società civile o quello, o come la vogliamo intendere, avvenga attraverso l'argomentazione è un'idea non solo povera, ma che ristabilisce i rapporti di forza a livello dello scambio, no? Comunicativo. E lei dà come inizio la pratica di narrazione, e però la individua così, cioè la pratica di narrazione intanto ha un punto di partenza che è plurale per definizione, non mi metto a raccontare una storia a chi la sa già, c'ha la possibilità, è un registro di parola che è per forza concreto, cioè trasmette una serie di informazioni non con la messa a tema di queste informazioni, ma perché nel raccontare una storia passa i valori, le urgenze, le esigenze, no? Di chi sta parlando, e poi dice che la narrazione è anche una... e anche una modalità discorsiva, quindi di pluralità, di passaggio di informazioni che chiamano all'elaborazione da parte di chi ascolta, no? Quindi c'è uno scambio reale, non c'è una trasmissione, e poi dice che la narrazione è una forma che riguadagna la partecipazione, il radicamento concreto e materiale, no? Delle questioni di cui si sta parlando e quindi del linguaggio. Cioè, la cosa terribile, abbiamo fatto un lavoro sui beni comuni, tutti sono d'accordo sui beni comuni, ma proprio perché no, questa parola non implica niente da parte delle pratiche. Sbagliata la parola. Ah, sì, va bene. Però è vero anche che certe parole possono essere impiegate da chiunque, quindi creare un falso accordo proprio perché non decidono niente poi del mondo in cui quel significato dovrebbe prendere corpo, no? Allora, chiudo. Guadagni sul piano teorico, sempre con quell'avvertenza di che cosa possa essere una teoria. Le donne possono, da questa eccentricità rispetto al passato recente, parlare di una situazione e aprirla per tutti, cioè trovare risorse che non sono, no, solo per una parte, solo per... La politica, se la ripensiamo così, ritorna ad essere caratterizzata innanzitutto da quello che innesca di partecipazione, cioè quindi la politica non segnata in primo luogo dalla caratteristica della rappresentanza, ma della partecipazione. E su questo troviamo appoggi, insomma, da più lati. E infine la riapertura di un possibile rapporto tra politica e diritti. Dal punto di vista delle pratiche, la partecipazione politica che si fa attraverso esperienza, no, urgenza dell'esperienza, secondo me può può essere una politica che guadagna nel fare rete, nel trovare connessioni, eccetera, perché la partecipazione è effettiva, cioè la narrazione chiama qualcosa di più che un'intesa sull'appartenenza. Se voi ci pensate, forse vi sarà già capitato, no? Raccontare storie, individuare problemi nel raccontare esperienze è un gesto che ha una potenzialità maggiore di quella del riconoscimento su determinati valori, eccetera. Altro punto di pratica, ma su questo io vorrei sentire poi le avvocate del lavoro, ma anche vorrei sentire le costituzionaliste, perché c'è un'apertura di discussione sul rapporto tra diritti costituzionali e forme della governance, quindi su questo veramente c'è bisogno di donne che lavorino con competenza su questo. C'è questo, come pratica di rinnovare il rapporto tra politica e diritto in un modo appunto generativo, dove la politica individua urgenze, no? Crea delle forme regolative di cui le fattispecie giuridiche possono essere uno dei momenti. Allora, questo, sì, a questo punto mi sei stata evocata a dare la parola ad Antonella Faucci, avvocata del lavoro. Nel frattempo vorrei segnalare che, visto che stiamo presentando le riviste di WWF, che è possibile acquistarle da Claudia, la di fondo alla sala. Chiunque voglia acquistarle è invitato a farlo. Chiunque voglia, sarebbe il caso che... Io sono stata diplomatica. Grazie. Sono io che posso fare la mano diplomatica. Antonella. Sono ammette, ho piacere di conoscere le giovani donne di WWF direttamente occupate tramite gli incontri sempre bisogna tenere vicini, sono il modello antico. Abbiamo accettato. No, no, bisogna che si sente. Ora? Ho paura che ti schiasse, no? Volevo fosse. E durante questo incontro quello che mi ha maggiormente colpito delle ragazze che pensavano occupati di WWF è proprio questo approccio, un approccio che definirei da una parte disincantato ma mai autocommiserativo e comunque sia sempre al di fuori di ogni retorica per quanto riguarda tematiche così attuali, così anche drammaticamente attuali, quali quelle della destrutturazione lavoro, della precarizzazione del lavoro, ma anche appunto, come diceva Teresa, della ricerca del senso del lavoro a partire da noi. Mi ha colpito inoltre l'urgenza che è emersa durante questo incontro e durante il vivace dibattito che devo dire ne ha servito nella fredda stanza della provincia, di trovare delle risposte. Di trovare delle risposte concrete a queste problematiche così complesse, così gravi che si erano poste durante questo dibattito. Sono uscita da quell'incontro cercando di capire queste risposte, dove potevo trovarle in me, nel mio essere donna, giovane madre e soprattutto avvocata del lavoro, avvocata della CGL di Livorno, con bagaglio ancora leggero di esperienza, ma diciamo io ho avuto il privilegio di essere figlia d'arte, mia madre e mio padre sono sindacalisti CGL, sono stati per una vita, la mia maestra di studi, l'avvocato Maria Paelessi, è avvocato della CGL di Livorno ormai da più di 20 anni e devo dire che nel corso di questo incontro ciò che emerge il periodo che stiamo vivendo, oltre che un periodo di profonda crisi economica, purtroppo talvolta viene anche un po' sfruttato come alibi per giustificare certi attacchi a quelli che sono i diritti del lavoro, la sensazione che ho è che si stia vivendo come un periodo in cui il regime sta dibattendo gli ultimi colpi di coda, cercando di smantellare a casaccio quella che è una costruzione. cioè opzioni e problemi, cosa che stiamo cercando, diciamo, della struttura dei diritti, in particolare dei diritti a tutela dei lavoratori, e in cosa si esprime questi attacchi, questo colpo di coda. Si esprime ad esempio nel famigerato collegato lavoro che più volte, diciamo, questo fantasma emerge nel conto di ricordo diversamente occupati, che io, diciamo, ho vissuto in maniera drammaticamente diretta nei miei approcci con i lavoratori, e quindi andando alle problematiche proprio concrete e dirette di chi dice ma io adesso cosa devo fare. Ora, al di là del fatto che il mille proroghe ha in un certo senso progettato un po' chissà, non si capisce nemmeno bene come, cercato di dare un po' di fumo negli occhi rispetto a questo grave attacco sui diritti, credo che l'effetto più eclatante di questa norma sia la commercializzazione del lavoro, cioè si cerca di monetizzare il lavoro, di trattarlo come merce di scambio, come forma di baratto, e quindi rendere il lavoratore sempre più vulnerabile, sempre più trattabile. Da quando le ragazze di PQF, in particolare Federica, mi disse ma te che risposta dai a questa problematica così attacca, io ho superato un attimo, un momento di sconvolgimento, perché a dire io come faccio a dare una risposta, però sicuramente la cosa che mi è venuta da dire è stata, secondo me la risposta non può essere altro che riassumere tre parole, e quindi informazione, relazione e negoziazione. Questo perché ritengo che comunque alla base l'informazione sia molto importante, che forse l'opera fondamentale è quella di noi operatori del diritto, perché mi rendo conto che a parte, diciamo, le generazioni, diciamo, a parte della mia madre, hanno una grossa consapevolezza perché li hanno vissuti direttamente in prima persona le stagioni delle lotte per la costruzione dei diritti dei lavoratori. Le generazioni successive, e soprattutto le giovani donne di oggi, i giovani ragazzi, i giovani uomini, spesso non sanno neanche quali sono gli strumenti che hanno concretamente a disposizione per chiedere la tutela di Venezia dalla tutela di diritti. Ciò che è nato da questo confronto, quindi la cosa estremamente positiva che mi è uscita anche da questo incontro di diversamente occupate, è che proprio da questa esigenza di dare risposte, insieme all'avvocato Maria Chiaressi, a un giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, che le tre operatrici del diritto, proprio con esperienze profondamente diverse, sia per generazioni, sia per anni di lavoro, abbiamo deciso di creare una sorta di guida, una sorta di abecedario del diritto del lavoro, abecedario, questa parola un po' attuale, però era questo il senso, proprio la BC del diritto del lavoro, e quindi cercare di fornire da una parte informazione, quindi uno strumento anche diciamo di confronto, di consultazione, per vedere quelli che sono gli strumenti a disposizione dei lavoratori con un occhio di riguardo ovviamente alle lavoratrici donne. E poi anche relazione innanzitutto, a partire da noi tre, in cui ci siamo molto confrontate per creare questa sorta di vita, ma anche contributi da parte di altre persone con personalità e esperienze diverse, collaboratrici con ruoli diversi all'interno di strutture pubbliche o comunque di aziende private, e con testimonianze dirette di come il lavoro viene vissuto all'interno delle varie realtà. E infine anche la negoziazione. La negoziazione è il passaggio, devo dire, forse più complesso, forse più ancora tutto da giocare. Però da una parte la consapevolezza che forse una strada c'è. Abbiamo riportato sempre qui, perché ovviamente noi siamo operatori dei diritti, come questo è, diciamo, il nostro lavoro, nelle analisi, diciamo, della normativa e da ultimo delle capolavoro non è sparata così tanto come minaccia per i diritti dei lavoratori, abbiamo riportato tutta una serie di iniziative tra l'altro di donne, di giovani donne, che hanno sollevato questioni di costituzionalità forti ed efficaci per cercare di dimostrare che a questa politica di smantellamento così imponente possiamo reagire con una politica di smantellamento contrapposta. Nel senso, riteniamo che gli strumenti ci siano, ma come mai forse è risultata attuale la nostra Costituzione? E del resto anche l'ordinamento comunitario che siamo inseriti ci fornisce dal punto di vista normativo degli strumenti importanti per, proprio per far vedere che queste nuove normative che mercificano il rapporto di lavoro, la tutela dei lavoratori, sono assolutamente contrarie ad ogni principio costituzionale o comunitario. E quindi diciamo c'è qualcosa che ritengo che fuori sotto la cenere e qualcosa che ritengo si stia muovendo. In questa sede quindi mi sento di riaffermare che dal mio punto di vista si potrebbe partire da queste parole, quindi relazione come stiamo facendo noi ora, formazione come stiamo cercando di fare e negoziazione, perché ritengo che sia proprio questa la base per cercare un attimo di creare qualcosa partendo comunque da noi. Grazie. E Adriana Amici. Si sente? Ciao. Allora, pensavo a questo incontro che ha un titolo per me molto importante e significativo, cioè trovare uno spazio in cui entrare in relazione. Importante per me, mi sembra che in qualche modo i due numeri della rivista già siano uno spazio in cui entrare in relazione e ritrovare un linguaggio comune e condividere saperi. Questo incontro di diverse generazioni, perché se sfogliate l'indice dei due numeri ci sono diverse generazioni, ci sono le diverse anime del movimento delle donne, il femminismo, vari femminismi, il sindacato nell'intervista a Susanna, vari saperi, e quindi come dire, e questo gruppo redazionale che è un gruppo diversamente occupate più il gruppo propriamente detto della rivista. Quindi mi sembra che è già in atto e che è già un passo avanti rispetto ad alcune questioni che poi proverò a indicare. Questa composizione di voci differenti, perché sono e restano differenti le voci che sono interpellate nella lista, e questo mi sembra interessante, perché la relazione apre ad un confronto che va oltre i confini di ogni anima, in qualche modo mutando una pratica che invece nei femminismi italiani porta a confrontarsi solo all'interno delle proprie anime, soprattutto sulla questione del lavoro. Allora, questo mi sembra interessante e mi sembra che sia, non vorrei dire doveroso, ma insomma, mi sembra che bisogna rendere omaggio a questa iniziativa e al modo in cui è stata affrontata. Ed è prezioso, proprio nel momento in cui costruire delle reti di solidarietà tra donne che lavorano, che vogliono lavorare, che vorrebbero lavorare, che hanno lavorato, che non vorrebbero non lavorare più, queste reti di solidarietà sembrano essere a rischio e sembra essere molto difficile incontrarsi sulle ricerche di cosa ci accomuna piuttosto che su quello che ci differenzia. C'è un eccesso di frammentazione delle donne lavoratrici, lavoriamo in modi troppo diversi, le condizioni hanno frammentato noi come soggetto lavoratrici, ma quello che in questa sede oggi mi sembra importante mettere in evidenza è che ci sono delle frammentazioni anche fra i gruppi che nei vari femminismi italiani hanno ragionato sul lavoro, un senso di distanza, di provvisorietà, e soprattutto questa distanza si è mantenuta fra le diverse esperienze dei femminismi e le donne nell'esperienza sindacale. Credo che questa distanza non è ancora colmata, anche se molti tentativi sono stati fatti, esperienze, incontri. E allora, rispetto ai vari femminismi italiani, io penso che sono d'accordo con quanto viene scritto nell'editoriale del secondo numero di DVF, quello del lavoro se e solo se, che valorizza le pratiche di conoscenza del femminismo intorno al lavoro che cambia, che valorizza, così come prova a valorizzarlo un altro librino che è uscito recentemente, Le donne reggono il mondo, che valorizza la capacità e il desiderio di conoscenza delle donne e l'acquisizione come valore, come pratica, se volete, metto pratica tra virgolette in questo caso, di tutte le conoscenze che si sono sviluppate e acquisite. Allora sì, ci sono anche delle narrazioni. Quando si parla di narrazioni io ho sempre in mente un libro di più di 30 anni fa, che è Lo spazio narrante di Ginevra Bonchiani, che allora scriveva, oggi fa l'editrice. Di questo spazio narrante Ginevra Bonchiani dava grande valore perché una narrazione si sviluppasse al desiderio di ascoltarla. Allora il desiderio di ascoltare è quello che genera anche, e quindi lo spazio narrante implica diversi soggetti. E allora quello che mi sembra, per accogliere un po' la provocazione di Federico e di Sandra, sì, è vero che io penso che di narrazione non se ne può più, io non ne posso più di sicuro, di narrazioni sul lavoro, però mi sembra che non voler svilire o sminuire il desiderio di tutte quelle che vogliono narrare di sé nel lavoro o di sé nelle proprie condizioni di lavoro, perché quello mi sembra che abbia un valore, un significato. In qualche modo accade che ci si palesi come un soggetto che vuole riconoscimento, e la narrazione è uno strumento di questo. Allora se è questo deve trovare spazio e ascolto, e di nuovo le riviste mi sembra che questo facciano, no? rinominare e ridare e dare spazio al bisogno di riconoscimento in questi gruppi. Vari gruppi, dei vari femminismi, tutto plurale in questo nostro paese, in questo caso, però sono di questi gruppi che in modo diverso hanno ridato visibilità al lavoro che cambia. E se volete, è in queste discussioni che noi abbiamo fatto da poco più di 10 anni che si è dichiarata l'ambiguità, il furto di significato, la contraddizione che c'è stata in quella sinonimia tra flessibilità e precarietà, perché 10 anni fa erano quasi sinonimi. Per qualcuno non sono più sinonimi, anzi dice che la flessibilità è quel valore fantastico per cui le donne scelgono il lavoro flessibile, wow! Vogliono solo part time, non vogliono fare carriera, tutte quelle che si occupano di precarietà sono miserabili, no? Ma ogni a parte alcune del tutto casuale. Del tutto casuale. A parte alcune casuale. Che ancora giocano su questo, io penso che tra le tante discussioni, tra i tanti ragionamenti che abbiamo fatto, abbiamo detto che questa ambiguità non è più tollerabile. Con più chiarezza forse il numero di Genesis dell'anno scorso. E quindi su questo valore degli effetti anche e delle conseguenze, dei significati, dei cambiamenti del lavoro che ha avuto su di noi come lavoratrici, dalla precarietà all'individualizzazione delle condizioni di lavoro, tutto quanto è già stato detto, ma anche a quello che è più duro da dire, cioè le competizioni tra di noi. Nelle situazioni di lavoro spesso ci siamo trovate in competizione. È durissimo da dirlo. genera anche un senso, come si potrebbe dire, di vergogna. Però dobbiamo... E poi abbiamo detto che come facciamo a chiamare lavoro quel lavoro che non è pagato, che non è proprio il dono, è un'altra cosa, è un lavoro che non riceve il suo diritto di essere pagato. Allora questo pensiero si è sviluppato, che si è radicato nelle esperienze appunto dei femminismi, ma in qualche modo è collocato ai margini. E allora già di nuovo l'editoriale lo sottolinea, ma l'intervista di Teresa a Susanna riporta con chiarezza che Susanna muove un'obiezione importante, che io credo che questa è la sede per provare a raccogliere, e cioè il femminismo si è fermato sulla soglia del lavoro. È un'obiezione importante, impegnativa. Cosa è successo secondo me? Provo ad entrarmi. Questo nostro sapere, questa nostra conoscenza sul lavoro che cambia è collocato ai margini, sui margini, nel senso che il femminismo italiano non ha assunto questo sapere, i vari femminismi italiani non hanno assunto il sapere sul lavoro che i gruppi femministi, alcuni gruppi femministi hanno prodotto. Non ha assunto la centralità anche trasformativa che invece ha assunto il nesso corpo, salute, sessualità. Quello è stato un nesso centrale, trasformativo, importante, che ha costruito la teoria, che ha costruito le pratiche, che ha trasformato i nostri saperi provvisori, incerti, imperfetti, mettiamolo. Non è questo il punto. Sul lavoro che cambia, che si sono costruiti anche con delle pratiche femministe, di partire da sé, di partire dalle nostre difficili domande l'una all'altra, nella costruzione di spazi che fossero spazi narranti, che comprendevano anche la difficile tolleranza delle sofferenze lavorative che provavano a trovare ascolto e essere visibili. Il femminismo, come dire, nella sua matrice più complessiva, a me pare che lo abbia lasciato ai margini, che sempre lo consideri come una cosa un po' aggiuntiva, un po' un post-it, un po' sì, c'è anche quello, siccome c'è la precarietà, allora bisogna anche fare qualche riferimento, ma resta ai margini. Quindi a maggior valore, a maggior ragione il valore di queste due riviste, anche se l'anno scorso devo dire che mi sembra essere stato un anno straordinario, perché c'è stato DWF, c'è stato Genesis, c'è stata Diadogana, c'è stato non so cos'altro perché io non ero in Italia in quel momento, ma c'è stata grande produzione pubblica dei pensieri delle donne sul femminismo, sul lavoro, scusate, del femminismo. Allora, quello è un margine, ma l'altro margine appunto è quello che incontra con la sinistra e con le donne del sindacato. Io penso che nelle nostre conoscenze, nella nostra produzione di ragionamento sul lavoro che cambia c'è un valore, e c'è contemporaneamente un valore e un limite. Non so se, e provo a indicarlo, non so se questo ha a che fare con la soglia, ma bisogna che pure centriamo. È un'elaborazione conoscitiva in cui appunto abbiamo provato a far dialogare il mondo interno, la pratica di partire da sé, l'ascolto anche delle dimensioni più soggettive, più confuse, con il mondo esterno, perché il mondo del lavoro, e non solo il mercato, il mondo del lavoro, ci tengo a questa dizione differente, come